Questo è il mio dramma, il mio personalissimo dramma. E se non altro ha la peculiarità di non assomigliare a uno dei soliti. I soldi, il lavoro, la crisi, la macchina che non ti puoi permettere, la squadra del cuore retrocessa in B o radiata dalle leghe professionistiche. O la donna, quella che non ti caga, quella che invece ti ha mollato senza nemmeno fornire uno straccio di spiegazione, e tutte quelle storie. Io sono un uomo fortunato, di quelli cui la vita non ha negato nulla. Affetti, sostanze, soddisfazione ed emozioni. Eppure, a 36 anni, mi ritrovo a sostenere con forza che, stando al mio vissuto fino a qui, il sentimento di immensa gioia che scaturisce da un pesante allenamento di corsa, a mio parere, è incomparabile. Posso dire che è come se quelli che prima di iniziare sono problemi quasi insormontabili, una volta terminato il training è come se questi problemi diventassero minimi o comunque risolvibili. Insorge una sensazione di ottimismo che dura, almeno per quanto riguarda me, dura dalle 4 alle 5 ore, che veramente pervade tutto il mio essere e tutto quello che faccio. Nel gennaio del 2004 mi sono ritrovato a correre per la prima volta insieme a Marco. Già da tempo correvo con una certa regolarità, però in quel sabato di gennaio del 2004 tutto è cambiato. Quel sabato di sole invernale la mia vita ha subito, almeno sotto il profilo emotivo, la sua più netta svolta che abbia avuto fino ad oggi. Svolta intesa proprio come profondo cambiamento. Marco mi insegna, standomi vicino e seguendomi per anni, cosa significhi correre, cosa significhi preparare una gara nei minimi dettagli, studiarla a tavolino, attenderla e viverla quasi come obiettivo assoluto, soffrire, resistere al fattore climatico, anche se quasi mai mi riesce, e poi reagire ai sorpassi, e anche in questo non ho imparato molto, e poi ancora dosare le proprie forze, disciplinare la propria alimentazione, il sonno, i vizi, e tutto questo mi cambia letteralmente la vita. Incomincio così a diversificare le 3-4 uscite settimanali, lento, medio, ripetute e così via. E con il procedere del lavoro mi ritrovavo sempre più frequentemente a notare che al termine di un duro allenamento ben riuscito, il mio corpo e la mia testa parevano pervadersi sempre di più d'uno straordinario, crescente senso di benessere. Non lo so, alcuni parlano di endorfine, io non saprei come definirlo. È benessere fisico ma anche mentale. È un inspiegabile senso di inebriante leggerezza. Una sete d'acqua del rubinetto, una fame moderata di cibi sani, ma soprattutto un indescrivibile entusiasmo, una voglia di fare, di dire, quasi di pianificare, di stare con la gente, un ottimismo incendiario e inestinguibile per tutto il resto della giornata, un vero toccasana per un pessimista cosmico e un po' asociale, quale io da sempre sono. Almeno in quel frangente di ore, insomma, in quello spazio successivo allenamento, insomma, tutto cambia. L'allenamento fatto al mattino comunque rende di più, invece correndo di sera è poi più difficile sfruttare il vantaggio psicologico che si crea. Il presupposto essenziale però perché tutto questo scatti è che l'allenamento sia duro. Poi il sonno e il mattino cacciano via tutto e le nuvole un po' tornano a occupare almeno in parte il mio cielo. Poi però la gara, la tensione, lo sforzo e la gioia, una gioia grande. Mai superiore però a quella che segue ogni allenamento in solitudine, al termine del quale sento di aver fatto la cosa giusta. Tutto questo però ovviamente ha un prezzo molto alto. Innanzitutto ogni giorno si riparte da zero, ogni giorno bisogna vincere la pigrizia, che malgrado quanto ho raccontato con l'avvicinarsi dell'allenamento, si presenta comunque, sempre, comunque. Lì, a tentarti e a domandarti perché non te ne stai a casa con questa pioggia. O ancora più allettante, ma perché con questo caldo, questa umidità, non te ne vai al torrente. Ma io, stoico, resisto, esco e alla fine, come da copione, quasi sempre,